24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, sono le 6:29 minuti, cari ascoltatori, che bella sigla natalizia. Ah, ma che bella sigla natalizia. Oh, ma che bella sigla natalizia. Va bene, sono le 6:30 in punto, allora ancora due sveglie a quest'ora e per me è Natale. Dai, dai con lo schema Allegri a tutta forza. Dai, dai, dai. È l'unico schema che si conosce. Forza! Allora, cari italiani, siete svegli? 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. E che dobbiamo fare? Dobbiamo aprire il Parlamento? Apriamolo! L'ultimo giorno del Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Poi il caffè non ve lo offre più Nicole Minetti, fatevelo offrire da chi volete, ma almeno fino al 7 di gennaio il Parlamento socchiuderà. Vabbè, vabbè, quindi voglio salutare anche i Two Fingers, che sono gli autori di questa sigla, Parlamento. E come dire, cari italiani, oggi i giornali raccontano sempre la solita Italia un po' barcollante, e gli ultimi avventori prima del Natale del nostro Parlamento sono Vladimir Luxuria, che saluto, ben ritrovata, eccola qua. Salve! Oh, che voce squillante! Certo, l'Italia si sveglia, eh? L'Italia si sveglia, ma certo, ma come no? Voglio salutare anche il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella. Eccoci qua, Maurizio. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Eccoci, oggi Panorama esce il venerdì, debosciati che non siete altro. Vi siete presi un giorno. Come mai esce il venerdì oggi così? Per motivi di chiusure incrociate con i numeri del Natale. Chiusure incrociate, cose che... Però è un numero interessante. Vabbè, ma poi ne parliamo. Allora, io voglio assolutamente iniziare dalla notizia che ieri avevamo qui Mario Adinolfi, ha detto farà il giro del mondo, è un po' il giro del mondo, l'ha fatta Vladimir Luxuria, l'hai vista l'ultima, dell'assessore in Abruzzo e il presunto, adesso sembra presunto, contratto con la segretaria. Il contratto per fare sesso, ecco, per Vladimir, te la sei persa? Sì. No, l'ho letta. L'hai letta. Diciamo che forse nel contratto aveva scritto che le pratiche non vanno sbrigate solo sopra la scrivania, ma anche sotto. Questo, non siamo in possesso della copia del contratto, ecco. Però questa è l'ultima, come dire, adesso la versione sui giornali in realtà è che fosse amore, vero amore, così almeno dice l'assessore, però effettivamente questa del contratto con la segretaria Che anche il matrimonio può essere considerato come una forma di contratto. Beh, lo è però di fatto. L'idea, diciamo, anche abbastanza avvilente poi per la dignità della donna lavoratrice, vabbè, ma qui aprirei un altro argomento, però insomma l'idea di mettere su contratto quante volte devi fare sesso, insomma, lo trovo non solo avvilente per la donna, ma anche per l'uomo, perché l'idea di pensare che un uomo possa fare sesso con una donna solo perché lo prescrive un contratto, mamma mia, non lo trovo poco erotico, ecco, direi. Sì, effettivamente dice, oggi è martedì, vediamo, sfogliamo un attimo il contratto, sì, oggi è martedì, oggi. Quindi per contratto, voglio dire, qua c'è scritto. Ovviamente avrà sicuramente una pensione per lavoro usurante questa donna, sono sicura che avrà messo questo non si sa. Certo, ora è su tutti i giornali, c'è la foto, c'è il nome e cognome, caro Maurizio, insomma, la casta delle regioni ci ha regalato anche questa nuova sfaccettatura. Ci sarà un punto in cui ci fermeremo oppure dovremo scavare ancora un po' col cucchiaino sul fondo? Ma che le regioni siano sotto certi aspetti una fogna a cielo aperto, ahimè, da un bel po' che lo scriviamo. questa storia del contratto sessuale a me pare però una panzana, se posso dire, l'ho detto subito, sì. Non mi convince, perché è ovvio che nessuno poi può far valere un contratto in senso, in termini legali, un contratto. Sì, sarebbe una scrittura privata. È la classica cavolata, secondo me. Avranno fatto tra di loro uno scherzo, la cosa sarà stata strappata, poi è stata trovata dagli inquirenti, che tra l'altro erano, a quel che leggo, guardie forestali, quindi forse non riesco a seguirne la logica. Ma sì, forse devo dire che forse è stata un po' romanzata questa cosa. Sono cose che agli inquirenti piacciono molto, e piacciono soprattutto ai giornalisti, come ovvio, però forse applicare un po' di testa alle notizie aiuterebbe anche a evitare. Sì, anche perché voglio dire, potete immaginare che due persone con un minimo di senno scrivano come una forma di scrittura privata, mettano per iscritto una roba del genere, cioè come minimo sono da internare, voglio dire, ma internare non in carcere perché non hanno fatto niente, ma internare da qualche altra parte. Ciao, ciao, ciao. Vladimir, scusa, la Monica Lewinsky era veramente un'educanda a confronto, devo dire. Ma la cosa divertente è che l'assessore Luigi De Fanis era l'assessore alla cultura, cultura, esatto. E devo dire che anche comunque questa segretaria non è che fosse proprio questo, pare che non è che era proprio veramente questo grande modello di correttezza, perché pure lei comunque è coinvolta nelle indagini, pare che chiedeva le tangenti, anche lei è coinvolta in questa inchiesta. Poi pensare che il contratto sia vero o falso, ha ragione quello che diceva prima il vice direttore di Panorama, però io sono sempre stata abituata a non lasciarmi sorprendere più di tanto dalla farsa italiana. Dici. Vabbè, insomma, abbiamo iniziato così, mi viene a dire in tono un po' leggero, ma in realtà c'è poco da essere leggeri perché l'inchiesta continua. Però la notizia del giorno, noi ce ne occuperemo alle 8:15. Allora, la questione è tecnica, lo sappiamo, sulla questione del killer che è evaso, evaso perché non è rientrato da un permesso premio. Caro Maurizio, c'è un altro caso a Pescara, proprio ieri, un killer pentito o ex pentito, che ha ucciso, ha contribuito a uccidere insieme ad altri in modo brutale l'ex fidanzata, anche torturata. Era in permesso premio, da 3 giorni è sparito, quindi sono due. Poi queste cose sembra che accadano apposta, no? Voglio dire, un giorno dopo l'altro, per montare i casi sui giornali. È vero che il carcere deve rieducare, è vero che se uno si comporta bene, come prevede la legge, ha diritto a tutto quello che ha diritto per legge, però io, insomma, che deve fare uno per rimanere in carcere e pensare che il carcere sia anche espiazione oltre che rieducazione, anche punizione? Guarda, la storia di Gagliano, che è quella che è appunto uscita fuori mercoledì, è secondo me la più grave, nel senso che lì la cosa che ha turbato tutti, anche i più garantisti, è quella, sono le parole del direttore del carcere, che ha detto: sì, per noi era soltanto un rapinatore, che avremo ospite perché ignoravamo perché per noi dal 2007 era qui per scontare la pena relativa a una rapina, e noi ignoravamo quello che era il suo pregresso. Sì, lì c'è da chiarire un po', perché quell'ignoravamo forse è stato interpretato in modo un po' strano. Noi l'avremo ospite alle 8:15, forse lui più che ignoravamo vuol dire lo dovevamo ignorare, cioè nel senso, per noi dovevamo prendere una decisione sulla base di quella che era la sua situazione qui a Marassi, perché in altre interviste ha detto: certo, lo so anch'io che in passato ha fatto altre cose, ma per noi quello non contava, cioè nel prendere la decisione che dovevamo prendere noi, quello non contava. Questo almeno sapisce la legge. È comunque una posizione irrazionale, perché è evidente che tu non puoi non tenere conto del pregresso penale di uno che ha ucciso 3 persone, è stato dichiarato infermo o semi infermo di mente ed è stato sottoposto a terapia in un ospedale psichiatrico giudiziario. Cosa fai? Ti fermi legalmente a quelle che sono le ultime vicende che ha compiuto, perché su quelle deve scontare la sua pena? No, ma deve avere. È evidente che per valutare il mio lavoro si valuta tutto quello che ho fatto nella vita professionale, è ovvio. No, ma questo certamente. E devo dire, suona lievemente arrogante la posizione del giudice di sorveglianza, che ha detto tutto è stato fatto in modo legittimo. Sì. Evidentemente tutto è stato fatto in modo legittimo, perché ma guarda, è legittimo, sì, ma solo che è fatto in modo sbagliato. No, ma soprattutto se ci si appiglia ai cavilli di legge in Italia, nessuno sbaglia mai nulla, mai. Poi cioè... il magistrato soprattutto non sbaglia mai. Si sa, Maurizio, grande amico dei magistrati, va a cena e a colazione e a pranzo con magistrati. Non confondiamo, io ho grande rispetto alla magistratura, ma trovo che ci sia, quando ci sono dei comportamenti degli errori, sanzionati. Però io vorrei sapere, allora, Vladimir Luxuria, tu che sei certamente garantista, tu che dirai, insomma, il carcere è anche un aspetto rieducativo, ma cosa, quando succedono queste cose, insomma, come ci si deve comportare? È solo lo sdegno popolare che dice ma com'è possibile che uno con questi reati sia libero e poi riesca addirittura a evadere? È una posizione populista? Diciamo che non considero l'evasione come, diciamo, la risoluzione al problema dello svuotamento delle carceri, ecco, mettiamo intanto così. Secondo, è che secondo me il torto maggiore che hanno fatto questi disgraziati è soprattutto nei confronti degli altri detenuti, che adesso secondo me ci sarà una stretta per quello che riguarda i permessi o quelli d'orario o quelli, diciamo così, di uscita, perché è vero, insomma, prima di ridare un permesso a una persona bisogna considerare un po' tutta, diciamo così, il curriculum della persona, e pensare che uno come Bartolomeo Gagliano, quando era evaso, dopo che era evaso, sequestrato delle famiglie, fatto sparatorie con le polizie, ucciso donne, ucciso trans, lo stesso Piero Esposito era uno che è stato, insomma, incarcerato perché ha torturato, ucciso e bruciato una donna di 22 anni. Insomma, sarei un po' appunto, più attenta. No, perché siccome mi arriva l'SMS e dice ma che fa Milan, mi diventa forcaiolo. Ma cosa vuol dire forcaiolo? Ma avete capito? Cioè, una persona, pentito di camorra, che, come ha detto Vladimir Luxuria, è stato accusato, tra le altre cose, di avere torturato, ucciso la sua ex fidanzata di 23 anni, secondo voi è giusto che stia in carcere perché ha commesso un reato e quindi faccia la sua pena, o è giusto che sia in permesso premio eccetera e poi evade? Non lo so, messa così, caro amico che mi dà del forcaiolo, è più contento che una persona così stia in carcere perché ha commesso un reato, mica perché l'hanno estratto a sorte, oppure che stia fuori? Non lo so, Maurizio, forcaioli se si dice. Forcaiolo non sei tu, non sono io, sicuramente non è Vladimir Luxuria. Tutti e tre siamo, immagino, anche preoccupati dal fatto che questo tipo di cose possano influire negativamente su misure che probabilmente sono giuste. Ma certo, per persone che invece lo meritano il permesso premio. Una cosa che ho sempre pensato, frequentando i tribunali, è che non sia giusto che a decidere sulla libertà provvisoria o sul permesso premio sia un solo magistrato. Perché il tribunale di sorveglianza così funziona, dovrebbero essere secondo me collegi fatti da tre magistrati o due magistrati, meglio tre, credo che così si decida maggioranza, che decidono sui singoli casi, e questo è un punto fondamentale, sì. Anche perché il singolo magistrato può essere sottoposto più facilmente a intimidazione. No, ma è chiaro, cioè se fare in modo che non ci sia una stretta per quelli che se lo meritano, ma che non sia neanche una cosa così lasca per cui tutti fuori. Ovviamente Vladimir, ti faccio sentire, è subito stata utilizzata per esempio da l'onorevole Giammanco, credo, di Forza Italia, sentite che cosa ha detto, perché tutto in Italia è politica. È follia pura. Un criminale che già è stato condannato, credo, per tre omicidi, quindi un pluriomicida, un serial killer, viene fatto uscire per buona condotta e che poi chiaramente non rientra mentre un leader che dal 94 esiste in Italia come leader del centrodestra, riconosciuto da milioni e milioni di italiani, per allontanarsi 12 ore e andare al summit del PPE, a lui non è concesso. Ma cosa c'entra, Vladimir? Cosa c'entra? Tutto riferito a Berlusconi. Cioè. Mamma mia, ma c'è... No. No, ho capito che il mondo ruota attorno a Berlusconi, secondo alcuni politici che devono sempre dimostrare la gratitudine nei confronti del loro datore di lavoro, però insomma tutto c'è un limite. C'è un limite, dice, attenzione, perché Silvio Berlusconi tra l'altro ne ha scovata una e ne ha scoperta una, lo scrive Libero, sai cosa vuol fare? Cara Vladimir, è un po' insomma addicted di Dudu, ecco, è un po' addicted di Dudu. E allora gli è venuto in mente questo. Penso per esempio che in ogni club di Forza Silvio ci dovrebbe essere il veterinario gratis per visitare una volta al mese gli animali. Posso dirti una cosa, Mila? Sì. Secondo me fra un po' sarà Dudu a evadere. Questa non è male. Evade Dudu, sei in permesso premio in giardino, e scappa e lo ritrovano da Arcore, vola verso Concorezzo, Vimercate, lo fanno giocare con Putin, sempre in braccio a Berlusconi. Secondo me tra un po' evade, caro Maurizio, questa non è male, non è male. Evade l'evasione di Dudu. Vabbè, che dobbiamo dire? Beh, il veterinario gratis è straordinario. Ha anche detto, sempre a quelli di Forza Silvio, ha detto: ci vogliono tre cose, vi dovete occupare di giustizia, solidarietà agli ultimi, ai più deboli, e diritti degli animali. Niente, proprio è partita la campagna diritti degli animali. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo. 24 mattino. Contro la politica e i politici sale la protesta del popolo bue. Carissimo Alessandro, a dirti la verità, io più che arrabbiata, ma adesso mi viene da ridere, perché non è possibile che una persona che ha fatto tutte queste cose riesca ad evadere, nessuno sa chi era, così è una cosa normalissima, nessuno si dimetterà, evviva, evviva! Chi è quell'imbecille che si permette di giudicare così Forconi? Chi è che ha il coraggio di dire nel 2014 che sono tutti fascisti, sono tutti delinquenti? Ma vergognatevi! Che bella figura avemo fatto con l'assessore che si è inventato un nuovo contratto. Aletta, dobbiamo dire che la smetta di fare quello che sta facendo. Gli italiani non sono cretini. Che significa togliere il finanziamento pubblico nel 2017? Ma veramente ci ha preso per deficienti? Subito deve togliere il finanziamento dei partiti, subito, subito, subito. Allora, siamo con Vladimir Luxure e Maurizio Tortorella. Vi voglio far sentire una cosa, poi parliamo. Ecco, questa vicenda di Lampedusa, che ancora insomma, le immagini sono abbastanza sconcertanti, no? Di questa disinfezione. Sentite uno che non le manda mai a dire, il leghista Buonanno. Cosa ha detto? Buonanno. Quel filmato che ha fatto così scandalo, io non lo trovo così scandaloso, perché quando arrivano centinaia di persone alla volta e c'è il pericolo della scabbia, non penso che ci possa essere una spa a disposizione per tutti e che evidentemente per poter immediatamente andare a tutelare tutti quelli che lavorano, anche le persone italiane. Vabbè, capito, Vladimir, mica è una spa il centro di detenzione, no, di Lampedusa, quindi non è che si può... Che? Quello, abituati a queste dichiarazioni da parte di questo comico che è un politico. No, come comico, Buonanno, dai, onorevole, sì, è uno. Era quello che metteva le sagome dei vigili urbani per spaventare gli automobilisti. Attenzione, è quello anche che ha tirato fuori il finocchio, ti ricordi, in aula. È uno showman. Io, guarda, vorrei ricordare a Buonanno che c'è stato un periodo in cui invece di essere un paese di immigrazione eravamo un paese di emigrazione. è che gli italiani che andavano in America venivano fermati a Ellis Island nel 1905, all'inizio del secolo scorso, e che venivano trattati un po' come sono stati trattati in quel filmato questi immigrati. E io, diciamo così, sarei per la dignità dell'essere umano in qualsiasi situazione si trovi, da carcerato, da immigrato. Sì. Sono dei, secondo me, delle cose che non si possono sopportare, non si possono tollerare, come quel video che abbiamo visto. Allora, Maurizio, io invece vorrei parlare un attimo di quello che appunto voi scrivete oggi su Panorama, perché c'è la crisi, e questo quante volte l'abbiamo sentito, ci sono le difficoltà, ma a me ha colpito moltissimo perché è una questione molto spesso di coraggio, ancora prima che di iniziativa di farlo. Il servizio che avete fatto, che poi la copertina, il cambio vita, cioè ci sono persone che hanno deciso di cambiare vita, cioè si può ancora avere, invece che lamentarsi tutto il giorno, l'energia per dire: ma sapete che c'è? Io cambio vita, decido di fare una cosa completamente nuova, mi reinvento, mi butto in un'iniziativa. Voi avete intervistato, chi produce manna, o chi fa l'agricoltore, chi è diventato un cuoco e magari prima lavorava era un notaio, un agente immobiliare. Cioè, sono storie ordinarie, ma straordinarie nel loro coraggio, però appunto, di gente che un po' per crisi, un po' perché evidentemente si era stancata anche di quello che faceva, magari ha approfittato della crisi per smettere un lavoro e inventarsene uno nuovo, di solito con successo. Ci sono storie diversissime tra loro, gente che appunto è partita utilizzando la liquidazione, altri invece che hanno proprio investito mutui, evitandosi, ma poi hanno avuto ragione di cambiare. Ma voglio dire, mi viene in mente, ce l'ho qua davanti, una ragazza che ha inaugurato un fragoletto, cioè fa le fragole, no? Che è un'impresa, cioè, ed era un consulente fiscale, per dire, no? Tante volte è una questione solo, come dire, mentale più che altro. L'architetto che ha scoperto che la passione per la fotografia era molto più pagante e appagante, e si è messa a fare da fotografo e adesso lavora per Vogue, per esempio. Storie veramente sorprendenti, interessanti e di stimolo, se vogliamo. Noi abbiamo pensato infatti un regalo, cambia vita. Ah, ecco, sì, a me. Cioè... No, pensavo a me, dice: ti svegli alle 5 del mattino, vai lì a sparare cazzate in radio. La cosa interessante è che riguarda appunto persone di vario censo, estremamente vario, e di età varia, perché ci sono giovani, giovanissimi. No, questo giovani. Certamente. Per esempio, Vladimir, che così vi saluto, tu hai mai pensato di cambiare vita? Perché io ci penso sempre, poi dico: vabbè, ma che cosa so fare? Non so fare niente, quindi dovrei iniziare a lavorare, e questo sarebbe un problema. Cara Vladimir, si può cambiare vita in questo momento? Per il momento io ho cambiato sesso, poi gli altri cambiamenti staremo a vedere, ma sono sicura che i cattivi ascoltatori del Parlamento in questo momento staranno pensando di suggerire come cambiamento a tanti politici di andare a coltivare un campo di patate, ma loro sono molto cattivi. O di fragole. Vabbè, vi voglio lasciare allora nell'augurarvi buon Natale con Civati. È tornato Civati. Sentite cosa ha detto il buon Pippo Civati. Civati, lei è l'ultimo amore di Berlusconi, lo sa, ha detto che ha persino dei begli occhi. Sì, ho prenotato l'analista intendo per capire cosa c'è che non funziona. Germini, le piacciono gli occhi di Civati? Gli occhi, no, il pensiero politico. Sono dei begli occhi. Vabbè, non scoppiò l'amore tra Germini e Civati, ma così è. Sono dei begli occhi, cara Vladimir, quelli di Civati. Sì. È bello? Sono begli occhi. Gli occhi di Civati sono belli, quelli di Berlusconi somigliano un po' a quelli di un'iguana, quelli di Civati sono belli. Anche tu però è l'ossessione di Berlusconi. Ma no, chi è il più bello? L'iguana chi è bellissimo. Chi è il politico più bello? Dai, dacci questa, il politico del 2013, più bello. Il politico più bello lo devono ancora eleggere, però devo dire che Civati, lei è un gran bel tocco, dai. Lei è un gran bel tocco, va bene. Vi ringrazio, buon Natale a Maurizio auguri. Tortorella, auguri. Panorama, auguri. Ovviamente in edicola, e a Vladimir Luxuria, auguri anche a Dudu. E allora andiamo al giornale radio. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui a leggere il giornale alle 7:18 minuti, cari italiani, forza, sveglia, debosciati che non siete altro, c'è da andare a lavorare, mi guarda Paolo Corleone, dico dalla regia, dicendo come debosciati, ma sì, dai, su, si dice così, no, per incitare ad andare al lavoro. Oggi parleremo allora di questa giustizia pazza, così vista ovviamente dai titoli dei giornali, cioè come possibile, cercheremo di spiegare, di affrontare in maniera molto laica, in maniera molto serena, senza essere forcaioli come qualcuno mi ha accusato poco fa, ma senza neanche essere proprio fessi e deficienti, quello che sta succedendo e come è possibile che ci siano in questo caso un killer che ha goduto di un permesso premio ed è in giro ed è fuggito, così come un pentito di camorra, quindi sono due le persone che anche lui ha fatto perdere le sue tracce per un permesso premio da pescare, non è più rientrato in carcere. Avremo ospite il direttore del carcere di Marassi, che è ovviamente anche criticato molto per questa decisione, il parere dato favorevole che poi ha fatto dare questo permesso premio a Bartolomeo Gagliano, e avremo anche altri ospiti dalle 8:15 per parlare di questo tema. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani. È venerdì 20 dicembre, intanto i titoli, alcuni dei titoli, il Sole 24 Ore apre con l'accusa del presidente di Confindustria, Squinzi, così il paese non riparte, il titolo di prima pagina. Per Repubblica vincono i sindaci in rivolta, manovra cambiata per decreto. Mentre Corriere e Fatto aprono su Telecom, l'accusa dei PM, ostacolo alla vigilanza su Telefonica e cessione argentina. E anche il Fatto Quotidiano, Telecom, così letta la consegna agli spagnoli, questo è il titolo del Fatto. Mentre per La Stampa la vicenda della giustizia in fuga dopo il permesso, adesso gli evasi sono due. Per il Messaggero, manovra, governo sotto tiro, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Libero, la giustizia all'italiana, spese pazze e premi ai killer. Ci sono anche altri titoli, li vedremo tra poco, io però voglio proprio approfondire i tanti articoli che ci sono su questa vicenda che poi noi tratteremo alle 8:15. Allora, adesso sono due come titolo in prima pagina La Stampa, e la coincidenza clamorosa è che questa avviene nel giro di pochi giorni, due i killer che sono in fuga dopo un permesso premio erano in carcere. Racconta Giuseppe Caporale su Repubblica, un altro assassino evade dopo il permesso, partecipò all'omicidio della ex fidanzata. Un'altra evasione, mentre infuriano le polemiche dopo il caso di Genova col serial killer non rientrato dal permesso premio, arriva la notizia di un secondo grave episodio. Il killer di Camorra, Pietro Esposito, manca da sabato all'appello del carcere di San Donato. Per il tribunale di sorveglianza di Pescara era diventato un detenuto modello, tanto che gli era stato concesso 6 giorni fa un permesso premio, 8 ore di libertà. Doveva rientrare nella casa circondariale alle 18 di sabato, invece quelle ore gli sono servite per fuggire, costringendo la polizia penitenziaria e la squadra mobile di Pescara a lanciarsi in una caccia all'uomo che ancora non dà alcun esito. E si scopre che non era il primo permesso premio che Esposito era riuscito a ottenere, un altro gli era stato concesso appena pochi mesi fa. Eppure è lui il killer che partecipò e poi confessò al brutale assassinio del 2004 di Gelsomina Verde, ragazza di 23 anni, sua ex fidanzata, torturata, uccisa, data alle fiamme dal clan di Lauro durante la faida di Scampia. Ora Esposito è in fuga, ma secondo il giudice del tribunale di sorveglianza, Maria Rosaria Parruti, era pronto a uscire, pronto per i permessi premio, a seguito di un'attività sociale di inserimento all'interno del carcere carcere alla definitiva interruzione dei suoi contatti con la criminalità organizzata. Anche per la stampa, anche il pentito di Camorra scompare dopo 8 ore di libertà. Ovviamente i fronti adesso di preoccupazione sono due. Il Secolo XIX si concentra soprattutto sulla vicenda di Bartolomeo Gagliano, che, ripeto, è ancora in fuga, fuggito da Marassi, o meglio non rientrato a Marassi. Cosa fa il Secolo? Va a intervistare una donna che fu aggredita con un colpo di pistola da Gagliano tanti anni fa, un incubo che torna dopo quasi 25 anni, dopo tutto quello che ho passato, con le mani tra i capelli, lo sguardo preoccupato, Laura Baldi, che ne aveva 29 quando Bartolomeo Gagliano, sparando a caso contro una lucciola in corsa Aurelio Saffi in delirio di follia e di sangue, la colpì alla bocca, al collo. Era il 5 febbraio 1989, una notte che la donna non dimenticherà mai. Racconta ora: ero sul marciapiedi di Corso Saffi, ho visto arrivare una macchina, il conducente mi ha fatto segno di avvicinarmi, poi ricordo solo un lampo e gli attimi successivi sembrano tratti di peso da un film horror. Racconta questa donna, che ora vive in una periferia non identificata dal Secolo XIX, dopo 25 anni per me torna l'incubo. E soprattutto incubo, chiederemo al direttore del carcere di Marassi, perché ha fatto scalpore quelle dichiarazioni, a dire: noi non eravamo a conoscenza, nel senso dovevamo decidere solo per il suo presente giudiziario, ma non sapevamo e non potevamo tenere conto del suo passato. In realtà oggi Francesco Battistini sul Corriere della Sera racconta la lettera del giudice al carcere: quel detenuto è un assassino. È una lettera che è stata spedita a luglio, data 19 luglio 2013, destinatario il carcere di Marassi, mittente Daniela Verrino, giudice di sorveglianza, oggetto detenuto Bartolomeo Gagliano. Insomma, scrive il Corriere, non è vero che in carcere non sapevano di avere tra le mani un assassino. Un riassunto del casellario giudiziale di tutti i reati commessi da Gagliano nella sua lunga vita criminale, perché bastava andare su internet, dice anche oggi il cappellano, per spiegare e capire che non era solo un rapinatore. Insomma, accusa il Corriere, non potevano non sapere, lo dice una serie di documenti che girano tra procura, carcere, studi d'avvocati, lo spiegano le relazioni del gruppo osservazione e trattamento, che a lungo si riunì per decidere se dare o no la scorta al detenuto Gagliano in uscita, affidandolo alla fine, dopo aver deciso per il no, all'occhio del cappellano Don Paolo. Insomma, tutti sapevano del suo passato e il Corriere si chiede ora chi pagherà per questo. Vabbè, ne parleremo, approfondiremo alle 8:15. Io però ora voglio dare spazio a un'intervista che lo scrittore Roberto Saviano ha rilasciato all'Unità. È la prima volta che parla da quando ha deciso qualche settimana fa di andare all'estero per vivere lontano dall'Italia. E l'intervista che concede a Stefano Piedimonte, che trovate a pagina 17 dell'Unità, è un'intervista che è anche un'accusa molto forte da parte di Saviano al nostro paese. L'Italia è un pantano, non riesco a starci. Questo è il titolo. Il titolo di Saviano, che dice tante cose in questa pagina: sono grato ai miei lettori, ma devo trovare il modo di riprendermi la mia vita, lo farò a tutti i costi, difficile farlo in Italia, voglio riprendermi una qualche forma di felicità. Depressione spinta, chiede Piedimonte. Sì, ciclicamente ci ricasco. Chi conosce la depressione sa che è come un'idrovora che succhia tutto ciò che hai dentro. La reclusione ormai coincide con la mia vita, una vita con o senza successo. Paradossalmente la mia visibilità e i miei impegni pubblici mi garantiscono quel poco di libertà di movimento che altrimenti non avrei. Vivo in Italia in una gabbia che voglio aprire e sto aprendo. Sul piano professionale il successo è qualcosa di importante, ti leggono in tanti, riesci a vivere del tuo lavoro, ma poi c'è il piano personale e sul piano umano è diverso. Ho capito che la fame è una cosa terribile. Un giorno in cui ero con la mia scorta al ristorante, una persona riprendeva tutto a distanza con l'iPhone. Il mio caposcorta evitò di intervenire e alla fine gli chiesi: ma cosa ci fai con questa ripresa? Mi rispose questo signore: a casa leggo il labiale così capisco cosa vi siete detti a pranzo. Ecco, la fama è questa brutta roba, morbosità. tanti mi vogliono bene e sono la mia forza. Ho la sensazione quando mi incontrano e chiedono di abbracciarmi di continuare a lavorare solo per loro, per questa Italia che vuole ragionare, capire. E poi però sentite l'accusa molto dura di Roberto Saviano all'Italia, paese di contrade, come diceva Guicciardini, vicino odia vicino, paese dove cinismo e disillusione hanno totalmente ucciso la fiducia, paese di un immobilismo insopportabile, insopportabile per chi ha investito tutta la sua vita in istruzione e formazione, insopportabile per chi lavora 18 ore al giorno per migliorare la propria posizione sociale, paese in cui non c'è più speranza, in cui l'alternarsi di visioni iperottimistiche e ultracatastrofiste ha finito per fiaccare ogni vitalismo, paese dove si è creata una sorta di cultura al massacro, dove una serie di commentatori, giornalisti, addetti ai lavori non distinguono tra l'errore e il crimine, cercando di mostrare tutto con lo stesso colore, tutti arraffoni, tutti ladri, tutti corrotti. Questo è il miglior modo per far vincere i peggiori. Se tutti sono peggiori, solo chi critica violentemente è il migliore. Questo è il trucco di certa stampa, di certi furbi. Io in questo pantano non riesco a starci. E poi conclude appunto questo sfogo dicendo: scusa, mi sono sfogato. Insomma, poi continua, parla della TV, parla di questa Italia, parla del suo successo, dice: ora voglio scrivere dei romanzi, ma è un'intervista molto intensa sull'Unità di Roberto Saviano, che vi segnalo, la trovate a pagina 17. Va bene, noi riprendiamo subito dopo la pubblicità con le altre notizie, state con noi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, eccoci qua alle 7:33 minuti. La notizia politica per alcuni giornali, la notizia del giorno, è questa vicenda che riguarda il gioco d'azzardo legalizzato. Ci sono tante notizie, ovviamente, ma partiamo da qui. Che cosa è successo? Nel decreto Salva Roma c'è stata una norma che prevede, in sostanza, un emendamento previsto dalla senatrice Federica Chiavaroli del nuovo centrodestra, che prevede che il governo tagli i trasferimenti alle amministrazioni locali che adottano leggi per ostacolare il gioco d'azzardo legalizzato. Quando si è profilata l'idea di questo emendamento che è stato approvato, il Movimento 5 Stelle è insorto. Roberto Maroni, che in Regione Lombardia ha fatto questa iniziativa: se apri un esercizio commerciale e non metti le slot machine, le cosiddette slot machine, non paghi l'IRAP, quindi come provvedimento per contrastare questo fenomeno. Roberto Maroni ha detto: è una vergogna, e subito anche poi Renzi l'ha definita una porcata, il PD rimedierà. Insomma, Marco Mobili racconta tutto questo a pagina 13 del Sole, il doppio no di Matteo Renzi al governo Letta su giochi e anche poi sul finanziamento ai partiti. Prima bolla come porcata l'emendamento slot approvato mercoledì al Senato nella parte in cui blocca i trasferimenti dello Stato ai comuni che introducono misure per limitare il gioco. Poi fa un'intervista al periodico Vita, diretto da Bonacina, e Renzi mette l'accento sul nuovo quadro di regole sul finanziamento dei partiti, giudicandolo inaccettabile, perché c'è la polemica portata avanti da Riccardo Bonacina e dal settimanale Vita, a dire: se uno farà una donazione ai partiti avrà una detrazione fino al 37%, credo, se uno fa una donazione al terzo settore ha una detrazione fiscale molto più bassa. Ed ecco allora che questo è il tema anche per il Corriere, a pagina 3, lo strappo sulle slot machine, meno fondi ai comuni virtuosi, con l'articolo di Mario Sensini, e anche Avvenire dedica l'apertura a questo tema, che Avvenire per la verità segue da tempo: azzardo avvelenato, la nuova norma regalo. C'è anche l'editoriale del direttore di Avvenire Marco Tarquinio in prima pagina, il titolo è Basta fariseismi. Si dice che non tutti i mali vengono per nuocere, scrive Tarquinio. Qualche volta è vero, stavolta, se dovessimo giudicare dalla forza quasi corale delle reazioni suscitate in Parlamento e dintorni, dovremmo concludere che l'ultimo cinico azzardo dei signori di Bisca Italia si è trasformato in un boomerang di devastante potenza. Aspettiamo i fatti. Poi Tarquinio racconta, ricapitola la vicenda appunto dell'emendamento, E conclude: adesso sì, si vuole riparare, non basta cancellare l'ultima norma della vergogna, occorre realizzare un grande piano regolatore nazionale che riduca gli spazi di azzardopoli, li tenga lontano dai giochi e i luoghi educativi, li porti al congelamento di ulteriori concessioni, stabilisca che le vecchie concessioni a scadenza verranno azzerate e ridiscusse. Niente più alibi, niente più greppie che si autoalimentano, niente più fariseismi. Governo e Parlamento ne sono capaci. Ma questo è l'attacco di Avvenire al sistema del gioco d'azzardo legalizzato. Comunque Renzi dice rimedieremo a questa porcata fatta. Staremo a vedere. Ci sono invece i comuni sempre più in subbuglio. Non solo il presidente di Confindustria Squinzi decide di fare un allarme molto molto forte, a dire così il paese non riparte, giudicando insufficiente la manovra con poche risorse distribuite a tutti, ma anche i comuni ora si aggregano a queste critiche. Per la verità ci sono state da giorni, ma ora passano ai fatti. I comuni sono allo stremo, portiamo lo Stato in tribunale, l'appello è del comune più importante, il primo cittadino, il comune più importante, Roma. Ignazio Marino viene intervistato da Giovanna Vitale su Repubblica. Che vuol dire, sindaci, per voi rinunciare a 8 miliardi? Significa migliaia di posti in meno negli asili nido, decine di migliaia di buche delle strade non riparate, linee di autobus cancellate, assistenza alle persone fragili azzerate. Noi quest'anno a Roma abbiamo fatto i salti mortali per non toccare il sociale, ma non possiamo garantire per l'anno prossimo. La nostra strategia, speriamo nell'intervento del Premier e del Presidente Napolitano. Il 29 gennaio terremo a Roma l'Assemblea straordinaria dei sindaci per valutare decisioni del Governo e del Parlamento e assumere iniziative conseguenti. Potremmo anche arrivare a una conflittualità con lo Stato che porterà i comuni a far valere le proprie ragioni in tribunale. Come Ignazio Marino adombra questa possibilità, ma anche da Milano il sindaco Pisapia, Giuliano Pisapia, intervistato dal Manifesto Antonio Sciotto a pagina 3, dice così: è scontro col governo, abbiamo pazientato fino all'ultimo, io stesso ho detto agli altri sindaci vediamo se si riesce a cambiare il provvedimento nelle battute finali, ma il governo non ha mantenuto due promesse: non operare ulteriori tagli e soprattutto concordare con noi le politiche fiscali che ci riguardano. Anche lui, Pisapia, dice: gli esempi di ciò che dovremmo tagliare e potremmo essere costretti a tagliare: assistenza ai disabili, gli scuolabus per i bambini, due servizi delicati, per esempio in primo piano. E vabbè, e questo intanto è il dibattito coi comuni, mentre il dibattito sull'articolo 18 subisce un freno. Lo stesso Renzi ha messo un freno, come scrive Lina Palmerini a pagina 5, ha capito evidentemente che un dibattito sull'articolo 18 non porta grandi consensi. Ma interessante in questo senso il retroscena pagina 11 del Corriere della Sera con lo sfogo di Matteo Renzi, racconta Maria Teresa Meli: io non ho totem da abbattere né da erigere, appartengo a un'altra cultura, non voglio ricominciare una battaglia di principio, dice Renzi ai suoi sull'articolo 18, senza avere bene in chiaro in testa se serva o non serva aumentare l'occupazione, perché questo è il nostro vero problema. Però poi si lascia andare a questo sfogo: io non ne posso più dei professionisti dell'articolo 18, intendendo per tali coloro che lo difendono o lo attaccano a prescindere. È un altro l'approccio che vorrebbe avere Renzi, quello pragmatico. La storia che vorrebbe raccontare ai tanti giovani precari che non sanno da chi essere rappresentati è capire se davvero togliere o comunque modificare l'articolo 18 serva o no a aumentare l'occupazione. Ieri poi, per quel che riguarda la politica, si è visto Casaleggio. È comparso in Parlamento il guru del Movimento 5 Stelle, tutti a seguire la giornata un po' stranita di Casaleggio, sbarca in Parlamento. C'è da dire che fa un'intervista a Repubblica di quelle, Tommaso Ciriaco a pagina 15. Sentite bene le domande e le risposte. Allora, Casaleggio sembra colpito dal Senato, le piace? Sì, il palazzo è molto bello. C'era già stato? Sì, c'ero già stato. Ma lei è un leader politico, perché non terrà una conferenza stampa? Forse sì, è possibile, vedremo. Ma quindi è solo un esordio parlamentare? Sì, verrò più spesso. Quando? Da gennaio. Che intervista è, voglio dire? Sembra più, non so, mi immagino un inseguimento con delle battute strappate. Ma il suo impegno servirà a ottenere quel ritorno di voto nel 2014? Sì, ci sarà un cambiamento epocale, enorme. Sono sicuro che questo paese cambierà. L'Italia cambierà quando cambierà culturalmente. E politicamente, a breve forse no, ma entro l'anno prossimo sì. Vabbè, Caro Mauro Meazza del Sole 24 Ore, ecco l'intervista buongiorno, che ha Alessandro. Dettato le linee della politica nei prossimi 45 anni. Come si dice, come dicevano i latini, le persone dotte sono di poche parole. Sì, vede sì, che... abbastanza. Quindi, classica intervista, però. Classica intervista in cui la domanda è lunga e il quadruplo della risposta. Ma vabbè, sono cose che succedono, mica colpa del giornalista. Insomma, è che è chiaro che Casaleggio la vedevo più un inseguimento, insomma, in cui è riuscito a strappare qualche parola. Vuoi che mi adegui a questo stile, facciamo risposte telegrafiche. Esatto. Cosa dice il Sole 24 Ore? Belle. Molte cose. Molte cose. Belle? Molte cose. Interessanti. Va bene. Allora, fuori di Celia, guarda, ti volevo segnalare, ovviamente, a parte la legge di stabilità, che come sai oggi riceverà il primo voto di fiducia già sì. Con impegni per modifiche. Che c'è? C'è Dudu che sta abbaiando sotto no, te. No, no. C'è già con la non mi trovo ad arco. No, ti posso rassicurare. Dicevo, legge di stabilità, poi appunto io, come sai, non ci sentiremo per 2 settimane, anzi colgo l'occasione per fare certo, gli auguri. Esatto. Sia per la partita che ci sarà, sai che ci sarà il campionato, che volevo farti i migliori auguri. Sì, io lunedì lavoro, non so, magari ti chiamo, adesso vediamo un attimo come va domenica. No, io ho da fare, devo leggere la legge di stabilità. Ah, metti le mani avanti, va Nonché bene. Tutti gli speciali, le informazioni dettagliate che daremo sul Sole 24 Ore già da domani, questa invece è una cosa seria, cioè veramente stiamo preparando una serie di approfondimenti appunto che fanno seguito già alle pagine di oggi. Poi vorrei segnalare una cosa un po' per i miei amici fiscalisti, il quadro RW, attenzione, hanno fatto un pasticcetto, bisogna compilarlo anche se avete un euro all'estero, non è che tu i 2 euro li hai portati in Francia, in Svizzera. Ecco, tienili in tasca perché sennò è un pasticcio, il tuo commercialista impazzisce per sistemare questo movimento dell'euro all'estero. E attenzione, il periodo è natalizio, c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia Europea molto interessante. Se vi arrivano questi volantini che promettono prodotti a sconti mirabolanti, eccetera, poi uno va in negozio, il prodotto non c'è perché è finito, non si trova, non è arrivato. Quella lì è una pratica ingannevole, la Corte di Giustizia l'ha sanzionata. Mm-hmm. Non è una cosa da trascurare, specialmente in questo momento in cui tutti più o meno si fanno regali di Natale. Tu che cosa puoi regalarmi, Alessandro? Beh, non lo so, magari una vittoria del Milan nel derby, adesso vediamo. Non so, perché io sono preso a leggere la legge di stabilità. Però ti faccio senz'altro i migliori auguri. Senti, un'ultima cosa seria. Sì. Parte da oggi la possibilità di inviare le domande per il decreto flussi. Sono le assunzioni di lavoratori stagionali o no stranieri, lo spieghiamo nelle pagine di norme e tributi, è una cosa importante, insomma il poco lavoro che comunque si crea, esiste questo percorso già consolidato, da oggi è possibile inviare le domande. Allora, caro Mauro, ti faccio tanti auguri, ti ritroveremo ovviamente nel 2014, grazie per il momento che sei stato con noi e forza Milan, come sempre! Auguri a tutti gli ascoltatori. Auguri soprattutto a te per la partita di domenica sera, augurissimi. E che dire, come dire, a proposito di Natale, c'è un giallo, i partiti che devono fare l'austerity, vi rendete conto? Ma Mario Aiello sul Messaggero, Mario Aiello, io ti adoro perché scrive sempre con la sua penna sopraffina, pagina 11, il Natale austero dei partiti, sedi low cost e licenziamenti, soltanto un appartamento come base per il nuovo centrodestra, il cavaliere agli azzurri, attenzione, è la prima volta che Berlusconi quest'anno non fa il regalo ai parlamentari. Natale proprio magro, Natale proprio magro, questo così, ma il Natale da leoni, Berlusconi è il titolo, un Natale da leoni è il titolo di Libero che ci regala la notizia relativa a Berlusconi, la notizia della politica del giorno. Ma voglio tenere un attimo di suspense, dopo il traffico vi dirò che cosa ha in mente Silvio Berlusconi per gli italiani. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccola l'idea del Cavaliere, secondo Libero, Paolo Emilio Russo, un Natale da leoni, pagina 10, l'idea del CAV. Vi regalo che cosa? Vi regalo il veterinario. Io ve l'ho detto, è da mesi ormai, no, da giorni, settimane che ve l'ho detto. Berlusconi punta tutto sulla campagna di sensibilizzazione per gli amanti degli animali. Ribadisce in ogni occasione: non avrei mai pensato di affezionarmi così tanto a un cagnolino. Dudu, Dudu, che come ci ha detto prima Vladimir Luxuria, sarà prossimo, forse il prossimo a evadere dalla disperazione, non si sa. Comunque Berlusconi ha detto: i club Forza Silvio dovranno essere attivi su tre temi: giustizia da cambiare, solidarietà nei confronti dei più deboli e diritti degli animali. Per esempio, dobbiamo immaginare che nei club ci possa essere il veterinario che visita gratis gli animali almeno una volta al mese e fornire assistenza agli animali domestici meno fortunati del mio. Per i cristiani, questo lo aggiungo, per i cristiani attendere al prossimo giro, prima gli animali. Che dire, questo per Silvio Berlusconi. Sarebbe tutto da aprire tutto un capitolo sulla questione economica Telecom Alitalia. Telecom, innanzitutto, il titolo di prima pagina del Corriere della Sera è questo. Telecom, l'accusa dei PM, Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 39, i PM su Telecom, ostacola la vigilanza, è già stato interrogato come testimone Franco Bernabé, il primo atto ufficiale di un'inchiesta, scrive il Corriere, che può avere sviluppi clamorosi, perché le verifiche ordinate dai magistrati romani ipotizzano che per il passaggio delle quote in telco relativo al controllo di Telecom Italia e la cessione di Telecom Argentina possa essere contestato il reato di ostacolo agli organi di vigilanza. Dunque i magistrati esplorano la possibilità che ci sia stata un'intesa occulta tra i maggiori azionisti per favorire l'ascesa degli spagnoli di Telefonica e sfuggire ai controlli di chi invece ha il compito di esaminare la regolarità di ogni passaggio, prima tra tutto la Consob. Questo è l'inizio di un'inchiesta, ripeto, che racconta il Corriere, tanto che la mette in titolo di prima pagina, potrebbe avere sviluppi clamorosi, e anche il Fatto Quotidiano, che ha già lanciato da un paio di giorni questa possibilità, intervista con Stefano Feltri Massimo Mucchetti. Massimo Mucchetti è senatore del PD, è presidente della Commissione Industria, ma nonostante sia del PD lancia delle accuse molto dure al governo. Il governo sta consegnando Telecom agli spagnoli, così racconta in una lunga intervista di una pagina in cui riepiloga tutta la vicenda il senatore Mucchetti, preoccupato per il destino di Telecom, molto perplesso per come si è comportato il governo, che il timore è che vada tutto agli spagnoli per pochi spiccioli. I dettagli ovviamente sono tutti nell'intervista, e dunque fari accesi su questa vicenda come da mesi su Alitalia. Ormai secondo Repubblica è abbastanza chiaro che si vada all'acquisto del 49% di Alitalia da parte di Etihad, prima di cadere tra le braccia di Etihad, che ha confermato l'esistenza della trattativa. Alitalia però ha bisogno di rifarsi il trucco, scrive Lucio Cillis nell'articolo a pagina 17, con un piano presentato da Gabriele Del Torchio a fine novembre che va in quella direzione, un piano che Repubblica ha potuto visionare, che segna da qui al 2016 il cammino verso la salvezza prima dell'integrazione nella rete di un solido partner estero, con tutte le soluzioni messe in campo da Alitalia per poi arrivare alla cessione in parte del 49%, questa è l'ipotesi di Etihad. che ha sede ad Abu Dhabi. Questa è l'idea secondo Repubblica. Per quel che riguarda la cronaca, ci sono anche gli sviluppi della cosiddetta vicenda Stamina. Ieri l'accusa di La Stampa, a pagina 2 e 3, che ha pubblicato dei verbali finora segreti dei NAS, in cui si scrive che questa presunta cura prevista e studiata da Davide Vannoni non sarebbe neanche da chiamare stamina, perché non ci sono neppure cellule staminali in questa infusione, e si parla anche di rischio mucca pazza. Insomma, accuse pesanti, accuse di avere fatto una cura cialtronesca, diciamolo francamente. E Davide Vannoni risponde: sono accuse ridicole contro di me. A dir la verità, oggi Grazia Longo sulla Stampa, pagina 7, insiste nel trovare ancora persone che criticano questo metodo, come è il caso di Laura Piumetti, madre di un malato di sclerosi multipla. Dice: ho scoperto mio figlio si è improvvisamente malato a 22 anni, potete immaginare come madre sono disposta a tutto, sarei pronta a credere a tutto, a tutti, anche a un santone, anche al professor Vannoni. Tanto che, racconta, mi sono fatta dare la liquidazione, ho speso la bellezza di 28.000 euro per inseguire un sogno, il mio Davide di nuovo autonomo in grado di camminare sulle proprie gambe. Non è andata così, oggi Davide a 34 anni deve fare i conti, oltre che con il dolore, la sofferenza, con la frustrazione di essere stato raggirato. E questa è la disillusione di questa famiglia, che dice: quando abbiamo speso tutti questi soldi non è servito a nulla, abbiamo capito e pensiamo di essere stati ingannati, ci siamo rivolti ai carabinieri. Ma insomma, questa vicenda continuerà. Siamo al momento conclusivo, siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, e torniamo sul tema intercettazioni. Fabio Cavalera dedica mezza pagina alle intercettazioni che il gruppo editoriale di Murdoch ha fatto in Inghilterra nei confronti del principe William e della sua consorte, come si chiama? Kate Middleton. Intercettato il telefonino di Kate, i messaggi intimi di William. Ah, che messaggi intimi! Uno su tutti: cara, vado a caccia coi beagle. Vieni, mamma mia. Oppure: ho corso nel bosco di qua e là, inseguendo ombre, perdendomi, trovandomi nel mezzo dell'imboscata di un altro reggimento. Mi stavano impallinando, non proiettili veri, ma proiettili a salve, eh. Oppure, sempre William, scrive al fratellino: Harry, sei la checca più bella che abbia mai visto. Ma chi se ne fotte? Vi rendete conto? Mezza pagina così sul Corriere della Sera. Anche a Natale l'imperativo è il solito: la carta costa, la carta costa, la carta costa. 24 mattino. Eccoci all'alba delle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo qui. Allora, cari italiani, adesso i casi di detenuti evasi durante un permesso premio sono diventati due in pochi giorni. Da sabato ha fatto perdere le sue tracce, si è scoperto anche oggi sui giornali, anche un pentito di camorra. Pietro Esposito era in carcere come killer. Come fuggitivo è anche Bartolomeo Gagliano, uscito dal carcere di Marassi con un permesso premio, mai più rientrato. Per carità, ne vogliamo parlare senza essere forcaioli, senza tener conto del carcere, che è fondamentale, anche un ruolo oltre che di espiazione anche di rieducazione. È un principio, come dice oggi intervistato da Repubblica il responsabile del DAP Pagano, un principio sancito costituzionale, un principio importante. È vero, come ha detto anche sempre Pagano, che nel 2012, a fronte di 25.200 permessi, ci sono state solo 52 evasioni. E dunque il sistema funziona, però vorremmo cercare anche di capire qualcosa di più. Intanto voglio salutare Stefano Zurlo del Giornale. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora, io voglio salutare, lo ringrazio per essere qui con noi, il direttore del carcere di Marassi, Salvatore Mazzeo. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Perché dobbiamo chiarire alcune cose, intanto a capire questo. Lei ha fatto alcune dichiarazioni subito dopo la vicenda che suonavano più o meno, come dire, non sapeva che Gagliano fosse un killer, un serial killer. Ma è davvero così? Dunque, allora noi dobbiamo capire com'è che funziona il meccanismo del permesso premio. Il permesso premio si basa su una valutazione della magistratura di sorveglianza sulla base delle relazioni che il direttore, del parere, che non è vincolante ma è solamente facoltativo, che il direttore manda alla magistratura di sorveglianza. Il magistrato può accoglierlo, quel parere, o può anche disattenderlo, come vuole. Sì. Ora, quali sono gli elementi che noi dobbiamo prendere in considerazione? Siccome il permesso riguarda il titolo della carcerazione, cioè il motivo per il quale il detenuto in quel momento si trova in carcere. E qual era il motivo? Qual era il motivo? Amare? Il motivo per la carcerazione era una serie di reati contro il patrimonio, di una rapina e altri reati contro il patrimonio per i quali era stato condannato a una pena, quindi di un cumulo di 11 anni. Okay. E quindi 11 anni. Quindi lei ha dato un parere su quella, cioè esattamente, per Amarassi era come rapinatore. Amarassi è esattamente i fatti pregressi che risalgono a 30 anni fa, sì. I fatti non dovevano rientrare in questa relazione comportamentale, perché sì. Quella era una carcerazione che già era stata chiusa, il detenuto aveva scontato la pena e quindi non era... Quindi era un'altra pena, però quindi è da qui che è nato l'equivoco, cioè in realtà lei sapeva benissimo, cioè sa benissimo anche il pregresso. Esatto, quando mi è stato detto questo è un serial killer, io ho detto ma chi lo dice che è un serial killer? Perché io conosco i precedenti del detenuto, conosco i precedenti del detenuto, ma non conosco nello specifico tutti i dati giudiziari che riguardano quelle vicende, le sentenze, le motivazioni della sentenza. Però mi scusi direttore, perché oggi il Corriere della Sera scrive che nel 19 luglio era arrivata a Marassi e quindi anche a lei invece una relazione nella quale, un'informativa nella quale si diceva guardate che la persona che voi avete per rapina è anche la persona che ha fatto questo e quest'altro in passato. È arrivata questa lettera, lei la... Ma che cosa si riferisce? Quale lettera, scusi? Cioè, oggi il Corriere racconta di un'informativa arrivata a Marassi che spiegava bene con chi si avesse a che fare. Sì, ma è chiaro che noi sappiamo chi è Gagliano, lo sappiamo, ma da questo a dire che noi conosciamo, cioè che noi conosciamo tutte le sentenze, tutta la situazione pregressa che, e quindi degli OPG, questo ha visitato diversi OPG. Questi atti, io sugli OPG e tutta la storia di pregressa di 30 anni fa, questi atti non erano nella nostra cognizione, o perlomeno non mi sono stati portati. Però mi scusi, qua se il Corriere dice che arrivò un'informativa, arrivò o no questa informativa? Ma guardi, informativa, io non riesco a capire di quale informativa parla, se ritiene il fatto... Guardi, glielo leggo, data 19 luglio 2013, destinatario direzione casa circondariale di Genova Marassi, mittente Daniela Verrino, giudice di sorveglianza, detenuto Bartolomeo Gagliano. Certo, capisco come no, ma sì, quell'informativa fa riferimento, dice, poiché Gagliano ha commesso tutti questi reati in passato, ma in maniera generica, però in maniera generica. Beh, ho capito, ma lei dice è vero che non ne doveva tener conto come rapinatore, ma non le ha fatto accendere una lampadina a dire ascolta, ha chiesto una relazione psichiatrica su quella base. Il magistrato su quella base chiede una relazione psichiatrica che in effetti viene effettuata dal servizio di igiene mentale di Savona nel corso del permesso, viene effettuato anche dallo staff di salute mentale del carcere di Marassi, quindi di Genova, e quindi noi abbiamo osservato tutte le procedure. Quindi sotto questo profilo diciamo che tutto l'iter burocratico è andato come doveva andare e quindi l'equipe mette a disposizione del direttore tutti i dati che ha, il direttore su quei dati esprime un parere che manda al magistrato di sorveglianza e il magistrato decide. Però mi dica questo, poi voglio chiedere anche e coinvolgere Stefano Zurlo. Lei, alla luce della ricostruzione, non è davvero pentito di nulla visto quello che sta succedendo adesso? Ma guardi, noi abbiamo fatto tutto il necessario. È chiaro che, come dice lo stesso vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Pagano, qua siamo nell'imponderabile. Certo, dire che non sono dispiaciuto, no, perché è sempre un fallimento quando una persona non rientra in carcere, come un fallimento per l'istituzione quando una persona muore in carcere. Perché io mi chiedo cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi in cui Gagliano, dopo 7 anni di pena, con un fine pena di un anno, come se fosse impiccato in carcere perché non avesse avuto una speranza di uscire nei tempi dovuti e di rispetto è garantita a tutti gli altri detenuti. Ecco, mi domando anche questo. Quindi, allora, come vede, il lavoro è molto difficile. È molto difficile, questo sì. Stefano Zurlo, è molto difficile. Insomma, ti convince il direttore del carcere, insomma, nella ricostruzione? No, mi spiace dirlo, ma le parole che ho appena sentito confermano che purtroppo in Italia si ha spesso con questi problemi un approccio che è burocratico. Perché il direttore non può venirci a dire che rimane quello che è successo nell'imponderabile e che lui sapeva le cose in modo generico. Questo Gagliano era evaso o no? Sei volte. Allora, sei precedenti evasioni, se è vero quello che hanno scritto i giornali, una sfilza innumerevole di reati, tre omicidi, uno stupro, una volta era addirittura scappato una settimana dopo, però, scusate, Stefano, una settimana dopo l'indulto. Il direttore ci dice, io dal punto di vista appunto burocratico dovevo giudicarlo per quello per cui era in carcere a Marassi. Ho capito, ma non funzionano i meccanismi, questo vuol dire che in Italia appunto, come dicevamo prima, si ha un approccio burocratico, arriva un fascicolo e si divide una persona in vari spicchi, si analizza uno spicchio, poi se saltano fuori altri 50 spicchi di quella persona, che per fare saltare fuori bastava leggere i giornali o bastava interrogare qualche detenuto a Marassi che sicuramente conosceva la storia di questo personaggio, beh, allora tutto si risolve. Ho anche letto, attribuito però non al direttore, ma al giudice di sorveglianza, la Verrina, che l'ultimo reato era stato commesso nel 2005 e che quindi, come dire, si doveva dare una valutazione positiva. Sì, ma infatti la questione è questa, direttore, è che sì, burocraticamente capito, può guardi, essere tutto dice, a posto, non dice però cose del tutto inesatte. Non dice le cose, nel senso, è giusto quello che afferma. C'è spesso un approccio più burocratico. E perché lei ha detto, scusi direttore, direttore Mazzeo, lei poteva dire dal punto di vista burocratico io potrei comportarmi così, ma siccome so che Gagliano non mi interessa che nel fascicolo, però so cosa ha fatto, è evaso 5 volte, sapete che c'è, io non lo firmo questo parere favorevole. No, che c'entra? No, io devo valutare la regolarità della condotta, non devo valutare la pericolosità di Gagliano. La pericolosità di Gagliano deve valutare il magistrato di sorveglianza. Io devo dire solo se Gagliano ha una condotta regolare in istituto e quindi valuto sia ovviamente gli anni di carcerazione che ha fatto, sia il comportamento, sia il fatto che ha un fine pena di un anno. Quindi sotto questo profilo per me Gagliano doveva uscire. E quindi, ma ripeto, è un parere che io do. Poi il magistrato. Sì, certo, il magistrato ha deciso. Poi il magistrato ha altre fonti di informazioni. Il magistrato può valutare, anche sentire le forze di polizia, valutare la pericolosità su tutto il materiale che ha a disposizione e che noi non abbiamo. Certo, il lavoro è chiaro, si fa in maniera più burocratica, perché i fascicoli sono tanti, le possibilità di studiarli attentamente, quindi sono poche. No, ma è chiaro, cioè Zurlo, la questione tra l'altro che certo, è il sistema che non funziona. Andrebbe cambiato, su questo sono perfettamente su questo d'accordo. Sì, Zurlo, mi pare più un sistema meccanico piuttosto che lasciare spazio a valutazioni personali. È un approccio formale a problemi che sono drammatici. Dopodiché io non sto qui adesso, cioè possiamo anche disquisire la responsabilità sia più di uno più dell'altro soggetto. Io quello che mi limito a osservare è che, come sempre in Italia, si fanno grandi disquisizioni teoriche, si piantano le bandierine dell'ideologia, ci si divide a parole tra forcaioli, non forcaioli, garantisti e compagnia bella, poi si cade davanti ai problemi concreti, ai problemi pratici, per cui questo signore, il direttore lo saprà, ad esempio a me risulta che nel 2005-2006 avesse distrutto una sala colloqui di un carcere davanti a un PM sfasciando tutto. Mi risulta che una settimana dopo aver avuto l'indulto, era stato arrestato per estorsione. Mi risultano a carico suo uno stupro, tre omicidi, sparava in bocca alle persone, è evaso 6 volte e stiamo qui a discutere sul foglio, sul fax, sulla pratica che era regolare. Questo è un quadro obiettivamente avvilente, quadro, ma ripeto, non è un problema di dire allora io sono più duro, più cattivo. Io sono favorevolissimo alla legge Gozzini, vorrei essere chiaro. Non sono qui a fare la parte del duro, perché so benissimo che spesso il lavoro aiuta le persone a venire fuori, che i permessi hanno un loro valore. Ho scritto innumerevoli pezzi sul recupero dei detenuti, ad esempio quelli che lavorano per le guglie del Duomo di Milano, che è un lavoro strepitoso. Però davanti a situazioni del genere e davanti a questa ci cultura che c'è in Italia, come dire, dolciastra, no? del perdonismo facile, del buonismo che pure affiora qua e là da alcune dichiarazioni, uno come dire si mette la mano. Ma questo certamente, però noi continueremo dopo la pubblicità. Nel salutarla, direttore, le chiedo questo direttamente, lei non ha nulla di cui pentirsi, insomma, può dire. Ma guardi, ripeto, abbiamo fatto tutto in piena aderenza alla legge, con molta coscienza, abbiamo acquisito tutte le relazioni comportamentali, abbiamo acquisito le relazioni psichiatriche, abbiamo fatto le relazioni di aggiornamento sulla situazione psichiatrica, abbiamo dato al magistrato tutte le informazioni di cui noi eravamo in possesso. Il magistrato in tutta coscienza ha ritenuto che sussistessero le condizioni del permesso premio, sì, e l'ha dato. Noi fra l'altro le dico più che io avevo espresso il parere per un permesso orario sul Galliano, orario. Il magistrato ha ritenuto in piena autonomia di dargli due giorni di permesso. Cioè orario, lei vuol dire 8 ore gli voleva dare? Voleva un permesso orario per andare a casa, salutare e poi tornare con accompagnamento nella stessa giornata. Ah, cioè orario vuol dire quanto? Un'ora, 2 ore? Orario, l'ho lasciato alla discrezionalità del magistrato, cioè non una giornata intera, ma alcune ore e da seguire, anche da scortare. Anche il precedente permesso è stato accompagnato dal cappellano, che è andato bene, il quale cappellano ha detto che era stato molto adeguato e quindi addirittura un comportamento esemplare ha riferito il cappellano. Ora, io capisco l'aspetto dell'opinione pubblica, ma allora cerchiamo di capire che è un momento di spendere più, non possiamo ridurre il personale degli educatori, gli assistenti sociali, gli psicologi, ma bisogna implementare queste figure professionali in modo che l'analisi della storia di un detenuto venga effettuata con tutta calma, con tutta questo è chiaro. Direttore, la ringrazio, andiamo in pubblicità, rimane con noi Stefano Zurlo, ci raggiungerà anche Alberto Marcheselli, che è stato per anni magistrato di sorveglianza, ci spiegherà come funzionano questi meccanismi dopo la pubblicità. Restate con noi anche con le vostre telefonate 800 24 00 24. 24 mattino. Eccoci qua insieme a Stefano Zurlo. Allora, rimane ancora qualche minuto con noi. Sono contento, il direttore del carcere di Marassi, Salvatore Mazzeo. Così come saluto Alberto Marcheselli. Buongiorno e benvenuto, Marcheselli. Ben ritrovato. Buongiorno. Lei è stato magistrato di sorveglianza per quanti anni? Per 13 anni. 13 anni, allora ci aiuterà a capire qualcosa di più. Vogliamo sentire anche un ascoltatore, Jacopo da Roma. Jacopo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io Però il cellulare non ci aiuta, vediamo di ripristinare la linea. Insomma, Zurlo, qui il direttore del carcere Mazzeo dice dal punto di vista pratico, insomma, abbiamo seguito tutta la procedura, questo è il concetto. Però effettivamente voglio andare un po' controcorrente, se vuoi, Stefano, e spezzare una lancia in qualche modo per il direttore. Cosa avrebbe dovuto fare, secondo te, se non applicare le norme e le regole? Avrebbe dovuto dire, nonostante non sia qui per quei reati, io il permesso, il parere non glielo do favorevole? Qui mi ricorda molto la situazione di quei medici che dicono il paziente in perfetto stato poi è morto, cioè tutti i parametri sono a posto però poi muore. È evidente che qui si tratta di raccordare, come si dice, i diversi segmenti, le diverse istituzioni, i diversi soggetti che poi devono valutare provvedimenti così complessi e difficili come ad esempio i permessi. Qui noi siamo abituati purtroppo spesso a una gestione, come dicevo prima, formale, burocratica, per cui arriva una pratica, c'è un numero, si dice sì, questo è dentro per questo, come è stato in cella è stato bene, che poi vuol dire ha sfasciato qualcosa, no, ci sono dei rapporti della polizia penitenziaria che dicono il contrario, no, cioè non si va un filino oltre nel dire attenzione perché ci sono tutta questa lista di precedenti, di fatti che, ripeto, bastava andare a vedersi in emeroteca i giornali e ci sarebbero capiti. Sì, ma poi abbiamo scoperto che in realtà l'informativa è arrivata poi anche, come ci ha detto il direttore Mazzeo, è arrivata anche a Marassi, quindi si sapeva appunto chi fosse. Infatti, come dicevo prima, il direttore dice in modo generico. È chiaro che tutto il problema è il passaggio dal generico al dettagliato, perché è chiaro che se uno ragiona dicendo ma in termini generali, in termini generici, questo è. Poi naturalmente è vero che la responsabilità principale spetta al magistrato di sorveglianza, ma questo è un altro problema italiano. Ma vediamo, visto che un magistrato, no? Visto sì, poi... che un magistrato di sorveglianza ce l'abbiamo, o meglio un ex magistrato, Marcheselli, lei, insomma, il direttore, non so se ha potuto seguire la trasmissione finora, ma comunque Salvatore Mazzeo dice: io ho dato un parere, ma il parere non è vincolante. Alla fine il magistrato ha deciso, il magistrato di sorveglianza ha deciso così. È davvero tutto in capo a una decisione del magistrato di sorveglianza, Marcheselli? Ma sì, il magistrato di sorveglianza fa la sintesi delle informazioni che riceve, ma la decisione è sua. Infatti, secondo me, il problema, per quel poco che ho percepito adesso, non è che sia, secondo me, impostato del tutto correttamente. Il magistrato di sorveglianza ha sicuramente deciso sapendo Bartolomeo Gagliano chi era e qual era il suo passato. Lo ha valutato e ha valutato che ciò nonostante meritasse il permesso premio, quindi non mi pare che sia stato un problema burocratico, assolutamente. Ma un problema proprio di valutazione eventualmente sbagliata anche. Sì, ma però si scopre dopo, si scopre dopo, lei dice che è sbagliata eventualmente. No, io dico una cosa più radicale, cioè dico Stefano Zurlo ha evocato l'idea del medico, ma l'immagine è perfetta. Cioè noi immaginiamo di avere dei malati paralizzati. Questi malati paralizzati possono diciamo essere restituiti a camminare con un intervento chirurgico. Si sa che l'intervento chirurgico purtroppo qualche volta fallisce, qualcuno muore sotto i ferri. La decisione è: li lascio tutti paralizzati o intervengo e qualche volta qualcuno muore sotto i ferri? La metafora è questa qua. Le misure, i permessi eccetera sono tutti tentativi. I tentativi per definizione possono fallire. È come quando dice Pagano, appunto, del DAP, su 25.200 permessi del 2012, 52 sono evasi. Certo. Dice, è una statistica. Se 52 sono troppi o troppo pochi o sufficienti. Il punto è tutto lì. C'è il rischio. Può decidere, non ne concediamo più, così siamo sicuri che è non chiaro. Ci sono fallimenti. No, ma questo non deve essere. Però è la domanda che le faccio. Secondo lei, viste queste situazioni, sono diventate due nel giro di pochi giorni, c'è il rischio che i magistrati di sorveglianza stringano un po' la cinghia e quindi magari non diano dei permessi premi a persone che invece lo meriterebbero? Il rischio c'è, nel senso che questa pressione mediatica è molto pesante. Io stesso l'ho personalmente vissuta tanti anni fa, insomma. Io ho smesso di fare magistrato di sorveglianza proprio per questa ragione, perché questa pressione mediatica mi ha fatto venire, diciamo così, il pensiero che non so se sarei stato ugualmente sereno a fare le cose giuste dopo averla subita. Cioè io sono stato sempre convinto di aver agito in scienza e coscienza, ma la pressione è stata talmente forte che ho detto: io non so se d'ora in poi riesco a fare le cose giuste. Io ricordo che noi ci conoscemmo e la chiamammo per un caso, non so se paragonabile, se me lo vuole ricordare lei, io non ricordo, però anche lei incappò, diciamo, in una di quelle decisioni che poi furono. Guardi, è una cosa molto semplice, cioè io partecipai a un collegio che concesse la libertà a un ex terrorista. Quattro anni dopo la concessione, questo ex terrorista commise una rapina a Siena. Io decisi di metterci la faccia, anche se erano passati 4 anni, per spiegare proprio questo meccanismo che stiamo spiegando qua. Però, nonostante io fossi totalmente sicuro di aver agito, ma questa, la mia sicurezza può contare poco, ma ci sono state discussioni parlamentari, voglio dire, ci sono state procedure, hanno tutti detto: ma per carità, quello era un procedimento assolutamente corretto. Ecco, io le dico, cosa che non ho detto mai, ma le dico che, per rispondere alla sua domanda, che la pressione fu talmente forte che io dissi: io ho fatto la cosa giusta, ma sarò capace di fare la cosa giusta anche dopo? Io non ne fui più sicuro. E per questo ha lasciato questo ruolo. Beh, insomma, sono decisioni umane che poi coinvolgono tutti. Direttore Mazzeo, le chiedo questo, ma che lei sappia... Vorrei intervenire, sì, certo. Tutto vorrei salutare esatto. Il Marcheselli, che non conosco personalmente, ma ho letto qualche suo libro importante e lo saluto personalmente. Grazie, direttore. E riconosco la sua competenza. Dica, Mazzeo. E professionalità. Volevo dire, ecco, l'aspetto della collegialità si fa riferimento all'aspetto, non sono atti che riferibili solo ad una persona. Qui ci sono tanti operatori che intervengono in questo procedimento che poi si conclude con il provvedimento finale del magistrato di sorveglianza. Qui intervengono educatori, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, va bene, direttore, magistrato di sorveglianza, forze dell'ordine che, a cui il magistrato si può rivolgere anche per valutare se esistono collegamenti con la criminalità attuale, quindi ai fini della valutazione personale del detenuto. Quindi, cioè, si sono sbagliati tutti? Questo è il punto. Nel, nel salutarla, dove è secondo lei, perché sarà interessato anche lei a seguire la procura, insegue, ora bisogna riprenderlo Galliano, è davvero in Francia come l'ipotesi più presumibile? Ma guardi, io le dico una cosa senza presunzione, io credo di conoscere bene, ma molto bene Galliano, perché in questi 7 anni l'abbiamo studiato a fondo sotto il profilo comportamentale all'interno dell'istituto, personalmente ho avuto diversi colloqui con lui, quindi e al di là degli, di quelle che sono le sue carenze affettive relazionali, che è una personalità a sfondo narcisistico, però è una persona abbastanza lucida e direi orientata, lucida e orientata. Io penso che Galliano in questo momento sta pensando di costituirsi, quindi io non credo che lui andrà all'estero, io sono convinto che si costituirà e se non si dovesse costituire sicuramente le forze dell'ordine lo prenderanno a breve. La ringrazio direttore, il traffico e poi rientriamo all'ultima parte di 24 mattino. Allora, gli ascoltatori, Jacopo, l'abbiamo recuperato, Jacopo, la linea? Ci sono. Eccoci, dica. Buongiorno. A me si è accesa la lampadina precedentemente quando il direttore del carcere ha detto che tra gli elementi di valutazione per concedere il permesso c'era anche il fatto che tra un anno sarebbe terminata la pena. È vero, è vero. Allora io mi domando una cosa, ma non ci stiamo un pochettino troppo soffermando sul dito e non guardare invece quello che è la luna, e cioè... Ma non è qua più in gioco il fatto che un pericoloso pluriomicida, come lo sta decantando la stampa da diverso tempo, sia tra un anno libero e non che sia, gli sia stato concesso il permesso? Guardi, oggi? Però il lei dice giustamente pluriomicida, ma quegli omicidi le pene le ha già scontate. Questa sì, è una cosa. Quindi voglio dire, adesso stava scontando un accumulo di pene, eccetera, di rapina per 11 anni. Quindi... Sono d'accordo, ma però il punto è un altro: perché questo sensazionalismo sul fatto che c'è un pericoloso plurimicida? Perché la stampa questo sta dicendo. È una bella domanda. Quando è una bella domanda. Tra un anno sarebbe fuori ugualmente. Jacopo, è una bella domanda. Insomma, sta dicendo Zurlo, sta dicendo, e anche Marcheselli, iniziamo da Stefano Zurlo: stiamo esagerando, cioè in fondo questa persona ha commesso quello che ha commesso, ma quello l'ha già scontato, e allora non è che si può dire a vita, se uno la pena è finita, la pena è finita. Ora la rapina, tra un anno sarebbe uscito comunque, quindi non si sta esagerando? Beh no, questo è un altro problema ancora. Intanto adesso mi spiace che non ci sia più il direttore del carcere, perché a me non piace questo teatrino per cui lui dice prima lo deve valutare in termini generici e generali, poi però ci dice che lo conosceva bene e ci fa anche la predica spiegandoci che probabilmente ritorna all'ovile, che tutto finirà a terra, luce e vino all'italiana. A me questo modo di ragionare assolutamente non piace, questo è il primo problema. Secondo problema, volevo dire anche al dottor Marcheselli che l'esempio prima del malato che muore, bisogna stare attenti, perché se il malato, il paralizzato di cui parlava lui prima, 6 volte è evaso, cioè 6 volte è morto, forse vale la pena di non tentare per la 7ª volta l'operazione, col rischio che poi si verifica della 7ª evasione. E veniamo al tema dell'ascoltatore. Ha perfettamente ragione nel porre il problema, ma non nel sottovalutarlo. Qui è un altro elemento drammatico, cioè in Italia non esiste la certezza della pena, perché uno legge il curriculum di questo signore, ripeto, è una spezza impressionante e inenarrabile di reati, dove c'è un omicidio con una prostituta che viene uccisa sfondandole il cranio con una pietra, un transessuale ammazzato sparandogli in bocca, rapine, stupri, spacci. Distrugge la sala colloqui del carcere e poi prende ma questo cosa vuol dire? Cioè tu faresti l'ergastolo? No, questo vuol dire che in Italia le pene sono virtuali e che c'è spesso e volentieri si trova un sistema per cui la pena, che sia l'ergastolo, che siano 20 anni, che siano 10 anni, che siano 10 mesi, le pene poi vengono dimezzate, perché poi c'è in primo grado magari ti prendi 20 anni e poi arriva l'indulto, o perché poi c'è come in questo caso l'infermità o la seminfermità di mente, o perché poi in secondo grado subentra magari una valutazione diversa e la pena scende, e poi c'è la reazione anticipata. No, ma è chiaro, c'è il tema della certezza della pena. Volevo finire perché ho finito. Questo naturalmente vale in un certo modo, poi per essere polemici oggi e cattivelli fino in fondo, quando però poi abbiamo, come ho scritto oggi, dirigenti della polizia che hanno catturato Provenzano, Madonia, i mafiosi condannati per farsi un atto pubblico, pena discussa e controversa per la vicenda del G8 di Genova, 12 anni dopo i fatti di Genova 2001-2013, in queste ore, in questi giorni vanno tutti agli arresti domiciliari per scontare pene di 6 mesi, 8 mesi, 3 mesi, perché naturalmente in questo caso invece la magistratura genovese, procura generale, tribunale di sorveglianza decidono di usare il pugno di ferro e non danno neanche l'affidamento in prova a Caldarozzi, a sì, Ferri, a tutti condannati questi personaggi, che alcuni dei quali sono gli eroi dell'antimafia italiana. Allora abbiamo un tizio che ammazza, che viene mandato in permesso premio, e abbiamo Caldarozzi, che è quello che ha risolto la strage di Brindisi con l'omicidio della ragazza a scuola, che è quello che ha catturato Provenzano, che adesso dall'altro giorno agli arresti domiciliari può uscire 2 ore al giorno per scontare 6 mesi di allora, carcere. No, ma è chiaro. Allora, le stesse considerazioni le giro a Marcheselli. Fa bene l'ascoltatore a dire un anno di pena e quindi sarebbe uscito, o fa bene Zurro a dire, ma è questo un po' il senso anche vergognoso, che non esiste una certezza della pena per una persona che ha commesso, che ha questo curriculum penale? Oh, secondo me fanno bene tutte e due, nel senso che immettono il dibattito nel giusto binario, cioè il giusto binario è decidere che cosa si può fare del diritto penale. Cioè, noi abbiamo tanta emotività perché un giorno sui giornali si legge che i carceri sono tutte cose vere, un giorno si legge che i carceri sono luoghi disumani, ci sono troppi suicidi, bisogna abolire l'ergastolo, il giorno dopo diciamo che evadono tutti e bisogna aumentare le pene. Sono tutte e due cose emotive, le emozioni sono cose giuste, ma non bisogna, questo è l'inizio della discussione. Noi facciamo sempre delle grandi partenze con l'inizio di questa discussione, ma poi il problema non lo affrontiamo mai. Bisogna decidere cosa si vuol fare, il legislatore deve dire in che direzione deve andare, non ci si può fermare a dire dobbiamo andare tutti di là, dobbiamo andare tutti dall'altra parte, dalla parte opposta, e poi fermarsi. Se questo è l'inizio di un ottimo dibattito, però bisogna poi proseguirlo. Certo, invece lei dice purtroppo in Italia viene spesso sull'onda emotiva e poi le cose non vengono, o meglio sull'onda emotiva poi si raccontano e raccontano quelle che sono le notizie di stampa, il dibattito poi dovrebbe andare avanti anche in altre sedi di chi poi deve prendere le decisioni. Fatemi sentire Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza, eccoci qua Maurizio. Buongiorno a tutti. Dica. Io volevo solamente ribadire una cosa, premesso che il fatto sia grave, quindi è particolare, e che la stessa opinione pubblica possa esserne così un po' turbata o altro, ma non pensate che i media sbattono in prima pagina questo personaggio in una maniera secondo me sbagliata? Cioè? Anziché aiutare una situazione psicologica sicuramente complicata sta vivendo questa persona, per farlo rientrare e agevolarlo, creano una situazione contraria. Ma ho capito, ma scusi, cosa dobbiamo fare? Io ho ascoltato personalmente la testimonianza della persona a cui è stata sottratta l'auto e che l'ha accompagnato, l'ha accompagnato a Genova, il quale ha detto chiaramente: guardate che questa persona la pistola me l'ha fatta esclusivamente vedere. Dopodiché l'ha messa in tasca, non l'ho più visto. Ho capito, ma cosa dobbiamo dire? Poverino, aiutiamolo. Cioè, Maurizio, capisco tutto. No, mi scusi che adesso devo chiudere, se no sforo. Però, insomma, mi sembra anche di non scadere nell'esagerazione opposta. Forse la stampa sta un po' esagerando nel porre questa cosa, ma non esageriamo neanche a dire poverino, aiutiamolo. Insomma, ecco. Un certo equilibrio. Ringrazio Stefano Zurlo, ringrazio Alberto Marcheselli. Noi siamo qui e rimaniamo qui anche lunedì 23, martedì 24. Grazie a Paolo Corleone in regia, a Miriam Lucchetti in redazione con Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli. Ci siamo ancora. Dai, dai, dai, a lunedì, dai.